andiamo, su, su, su, su con la vita, su, su Billy, su, su, su con la vita. Su che andiamo? Oi, Biondo! Ebbè, Brigido! Sì, adesso sono rientrato, adesso mangio un panino, mi faccio la luce, mi metto in piscina, mi metto, domani mattina torno a cazzo alle 5 e mezza. Cambiato. Tu sei posto di combattimento, cavolo. Oh, yeah, per carità. Cosa bisogna fare per guadagnare 5.000 euro al mese? E allora? Cazzo, se pigliavo 5.000 euro al mese, non cadà con la break handy. E lui mi sta sbattendo la zamba con la camarada. Vabbè, anche io non sono andato a camminare al mare. Cazzo, lui c'era bello, La mattina. La mattina sono andato alle poste e mi è arrivato un sms a ritirarmi una certa carta. Sono andato, lo sai che io non ne sono uscito da lì, da Londra, di Rutti e mezzo, per favore. Vai tu, me lo posso immaginare. Dai, aspetta un attimo a tale che mi spoglio, che entro con la divisa. Sentiamo fra un po'. Via. Natai! Boia! Nara, Nara! Esatto, dai! Ma mi intendi? Ho detto quella roba lì programmata, dai! No, no, cazzo, è un casotto, Ci faccio fa l'affare giusto da metterci dentro. Ah, che cazzo! Non è tanto facile, no? Ti ascolti. Io. Cazzo, sono sciolto, Natale, sciolto. Niente di strano, mi ha detto di fare anche un'altra ora in più, per carità. Ui, sto scherzando, cazzo. Ui, mi dai 10.000 euro e te la faccio l'ora in più. Ma mi dico cosa ti rispondi. Ui, ma che cazzo, sono una massa di magliacci, per carità. Una massa di pagliacci quella gente. Io me lo posso immaginare. Non regalati. Cos'è la tariffa? Il bus immaginarsi, mi faccio travagliare anche circoncisioni. Sì, fino a quando sopporto, poi quando mi si gonfiano bene, ce ne manda a fare il culo, ce ne vado. Io sono fatto così. Sì, infatti. Quando mi si fanno due mordonfiere, come due mordonfiere, vedrai che già il paradura dice. No, ma non capiscono che tira, il cordone si rompe. Non lo sanno che si rompe. I murchi, mamma mia. La signora serata di capelli, giusto? Che fredda e scita, che dita è, che dita non è. Di tutte le mani entrano lì. E tu devi disegnare tutto, così è. E per forza, entrare negli orari, entrate, usci quando entrano, escono. Tutto devi segnare nella giornaliera. Devi segnare tutto e poi devi guardare se c'è gente che può entrare. È un casotto, Natale, è un casotto. E non è facile, no? Cazzo, mi ha chiamato la collega che era dalla Cabacchi, lui era poco torrese. Cazzo, ma io sono scelto di testa, no, io secondo me ne vado. Ma stai entrando in massone, in disegno, vieni in disegno io, roba di 40, 400 massone, fare i rataivi. Si era migliore. Cazzo, ma dove sono che entra, ne gira la mintendi. E pensa tu, fatti la gente, dammi il cambio, te, vieni qua dove sono io, no, per carità, allora non lamentarti. Cazzo, anzi, tu sei in un luogo più tranquillo. Che ti passa su Bassolo? Cazzo, zio, no, da dove sono loro ne passano qua, non ti dico male 10 persone, dove sono loro. Da me, dalla mattina, alle 6 e mezzo, alle 6 e mezzo le sono entrate articolati, che timone rimane in capo. Articolati di bobine, lui, nulla, e lui si lamenta per 10 persone, entrano. poi scegli quello che preferisci. La prima pari un gusto. Questo è un ragazzino, 24 anni. Sì, ma si sa tutti a Madrid di Mazzoni. Appunto, la gente, ma che mi dai lo giambo, che ti scende tutta l'ora. Ma ci sei davvero? Te lo senti? E ci mandano dalle 8 alle 11 e mezza, verani, tre impiegati, chi la più, guarda, vogliono fucilarti sul campo, si vede niente travaglienti, dici, e cazzo, ci ne fucili. Non sono di Sassuccia, cazzo, ha una pratica a un'ora, ma dimmi tu, uno era così fermo e non chiamava, chi ti vecchi a Gico, cazzo, bisogna vedere, guarda, una puta ci mandano. Ma in quale posto sei andato? Quello di via Bugino. E allora, Gesù Cristo mio. Oh, lascia perdere. Dovevo andare alla Teloce e ancora a Bizio. E chi mi dice sì? Dopo pomeriggio sì, dai. E si andava bene, in giro del mondo sempre. Beh, il 25 aprile non c'è mai nessuno. Stamattina dice che c'era il mondo. E tutte per queste cose qua sono, allora. Perché è da tutte le parti così. È da tutte le parti. Ma me erano pochi, erano gli impiegati che non servivano. Gesù Cristo, io non ho mai detto niente. Guarda in questo modo. La gente lo sai, la gente più casse ci sono più si addormentano. E lì in via Bugino mi sembra che sono tre o quattro. Tre sono impiegati, cazzo, e vi do un casino di sportelli tutti minuti. Ma a parte che una che ha fatto una scortesia nei miei confronti, è entrata una con la stampella e l'ha detto vieni, vieni, senza numero né un cazzo. Dimmi tu, e se io mi cavallo del serino, ci sono prima io della signora Budiudilli. Si sposti lì, sono invalido anch'io, mi cavavo lo destino, sono invalido anche io, mi serva subito, se no sto chiamando i carabinieri. E tu in teoria c'hai la prioritaria, perché cazzo tu sei invalido e quindi devi passare prima. Tu peggio, ma te che hai settato? Qua mi sono cogagliato a chiuso con i signori, cazzo. A chi se no vera da compucciata vero così. Cosa sta facendo signora? Che numero c'ha? Mi faccia vedere che numero ha. Nei miei confronti proprio, prima di me l'ha fatta passare. E chi c'era senza numero e senza un cazzo? Ma dimmi tu. Io, ma siamo a Sassari, vogliono prese sparati, col fucile subacqueo vogliono sparati questa gente, o se no a cannello. Ci sono tutte gente, vero, dall'otto, di mangiare, mi sono andato, cazzo, all'11 e mezzo. Ha tirato la puta che arrivi una cazzo a che con la ciampella la fate entrare prima di te e tocca proprio a te in questo momento. Chi sei più invalido d'edda? Allora tutti pronti per ballare? Cosa vuoi dire? La gente fa i furbi. La gente furbetta c'è sempre, Natali. C'è sempre la gente furba. Un attimo che mi assento, Natali. Yeah. Oh yeah! Succheriamo! Avanti un altro! Su, si tromba! Tromba che ti passa, tromba! Ero Puerto Rico e tromba. Oh, please, shut up. Su, su, su.